already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. 150 tysięcy litrów wody. Zużywa rocznie twoja rodzina przy codziennym... Beh, c'è chi accusa la Polonia, no, e i polacchi in genere, gli ultimi anni di essersi molto americanizzati. Beh, questo spot con questa voce profonda, sentiamo... Zostawiając sprzęty w trybie czuwania. Sembra a tutti gli effetti lo spot di un bel film catastrofico americano prodotto da Hollywood. Invece ha a che fare con una serie di catastrofi in atto ed è uno spot, ma qui finiscono le similitudini, perché in realtà invece è lo spot ufficiale con cui è stata presentata e lanciata sul piano perlomeno nazionale la 14ª conferenza delle Nazioni Unite, che oggi ha aperto i battenti appunto in Polonia, nella città di Poznan, e ha radunato circa 8.000 addetti ai lavori, nonché una rappresentanza americana sulla quale magari faremo una riflessione a parte, perché appunto è una rappresentanza che viene ancora a nome di una amministrazione uscente. Sappiamo bene quanto poi gli americani in questo tipo di appuntamenti giochino un ruolo chiave, ma in sostanza è anche un appuntamento ponte, diciamo così. Siamo a metà strada, no, dall'avvio di quel protocollo di Kyoto che è entrato effettivamente in funzione il 1 gennaio 2008. Siamo sulla strada di Copenaghen, dove dovrà essere approvato quel piano post Kyoto, che dovrebbe tener conto di tutte le risorse, di tutte le visioni comuni, di tutti i progressi e di tutte anche le emergenze nate lungo questo cammino. Per capire un po' meglio di che cosa si discuterà in questi giorni, quali sono gli obiettivi reali, quali sono magari invece gli obiettivi di sfondo, così appunto un lavoro in progress a cui queste persone dedicheranno le proprie energie, abbiamo chiamato Marco Magrini del Sole 24 Ore, esperto di questioni ambientali e climatiche. Buon pomeriggio, Marco. Buon pomeriggio. Allora, ci sembra di capire un appuntamento al tempo stesso interlocutorio, ma che serve a preparare il terreno per un appuntamento dove invece poi non è consentito sbagliare. Sta più o meno così? Sta esattamente così, nel senso che l'anno scorso a Bali il vertice delle Nazioni Unite era riuscito a mettersi d'accordo soltanto su appunto la strada da intraprendere per arrivare l'anno prossimo a dicembre a Copenaghen e in quell'occasione ratificare il protocollo che prenderà il posto del protocollo di Kyoto dopo il 2012, quando Kyoto giusto appunto arriva alla sua naturale scadenza. Esaurimento, certo. Quali possono essere, fin d'ora si può intuire i settori su cui si lavorerà, si insisterà in questo appuntamento in Polonia? Ma dunque, le cose da sistemare sono quelle di sempre, cioè la riduzione obbligatoria delle emissioni di anidride carbonica, i piani per il cosiddetto adattamento, perché si dà per scontato che l'innalzamento del clima del pianeta porterà inevitabilmente a dei problemi e quindi c'è da giusto appunto investire per fare in modo che gli impatti climatici non siano troppo forti sulla società umana, certo. E poi un sacco di altri dettagli tipo il trasferimento tecnologico eccetera eccetera, però certo. In realtà si tratta di una grande battaglia politica, perché da un lato l'Europa arriva a questo appuntamento spaccata, cosa che non lo era. Ecco Marco, ma si possono definire, adesso parlo in termini molto generici, ma dei fronti contrapposti e forse addirittura dei buoni e dei cattivi in questo ambito? In questo genere di cose è sempre molto difficile. Di sicuro la parte del cattivo finora l'ha recitata l'America, certo. Che durante l'amministrazione Clinton aveva firmato il protocollo di Kyoto, salvo poi non ratificarlo mai. E l'amministrazione Bush, a questi vertici che io seguo ormai da svariati anni, ha sempre avuto un atteggiamento molto molto duro. Ora, il problema qual è? Che quest'anno il vertice appunto si è aperto oggi e durerà 2 settimane e l'amministrazione Bush è ancora in carica e quindi si dà abbastanza per scontato che non si attendono grandi sconvolgimenti da parte americana. Però è evidente che il presidente eletto Obama ha già dichiarato apertamente durante la campagna elettorale di voler fare in modo che gli Stati Uniti partecipino al taglio obbligatorio delle emissioni e quindi si apre uno scenario assolutamente nuovo. Il problema è che si apre fra un mese, quando ormai il vertice di Poznan sarà finito. È anche un po' surreale questo scenario, perché in un certo senso, per coerenza, probabilmente le persone che andranno a rappresentare l'America a Poznan in questi giorni porteranno avanti una linea che sicuramente non è aderente con quella che invece Barack Obama ha presentato in campagna elettorale. Certo. E questo, diciamo la verità, questo è il motivo per il quale il vertice di Poznan, al di là di tutta la sua importanza politica e strategica, realtà un vertice dimezzato. Interlocutorio, per forza, non c'è dubbio. E dall'altro, tu dicevi i buoni e i cattivi, l'altra variabile fondamentale è la Cina, perché noi sappiamo che un sacco di paesi, a cominciare dagli Stati Uniti, hanno sempre detto noi non intendiamo assumerci pesanti obblighi se anche la Cina non se li accolla. Ora, nel protocollo di Kyoto la Cina non ha alcun obbligo e quindi si tratta di vedere quale sarà la posizione della Repubblica Popolare. Devo dire che la Cina negli ultimi anni, già l'anno scorso a Bali, ha cambiato sensibilmente la propria posizione e è decisamente molto più, come può dire, possibilista, è molto più aperta di quanto non sia l'amministrazione americana. Beh, anche perché sta, insomma, ormai sono notizie tutti i giorni, ma sta cominciando a fare i conti con una serie di emergenze che stanno diventando necessariamente anche sue, no? È un assolutamente, ma guarda che la Cina, parlavo proprio l'altro giorno con un lobbista ambientale inglese, uh-huh, e mi diceva che la Cina sta facendo in realtà zitta zitta delle straordinarie mosse in questo senso. Per esempio, ha riformato il sistema per il pagamento dell'elettricità, facendo in modo che le imprese che non sono efficienti nel consumo dell'energia pagano molto più delle altre. Ogni anno questo tetto viene alzato e pare che il governo di Pechino ha proprio l'intenzione di mettere fuori mercato le aziende che non si adeguano ai parametri dell'efficienza, e questo credo che sia un segnale pratico di una nuova volontà cinese che effettivamente potrebbe cambiare completamente le carte in tavola. Noi a questo tipo di sorpassi da tempo che dedichiamo l'attenzione al nostro programma. Senti, per concludere, c'è un rapporto di Legambiente sul quale abbiamo buttato un occhio, che all'Italia, in relazione alla partecipazione a questo vertice di Poznan, regala la solita maglia nera, o perlomeno molto grigio scura, pare viene definito in ritardo cronico il rapporto con i gas serra da parte italiana. L'Italia avrebbe riversato all'atmosfera 567 milioni di tonnellate di anidride carbonica, giungendo a un più 9,8 rispetto ai livelli del 90, quindi partecipiamo, ci riempiamo di buoni propositi, ma poi com'è? Sì, no, sicuramente questo problema c'è e devo dire che l'Italia non è sola. La verità qual è? Che, faccio un esempio, la Germania, siccome l'anno di riferimento di tutte queste cose, incluso il protocollo di Kyoto, è il 1990, la Germania, con il fatto della riunificazione e il fatto che molte imprese altamente inquinanti della Germania dell'Est, che nel 90 erano funzionanti e poi sono state chiuse dopo il crollo del muro di Berlino, ha migliorato la posizione della Germania. Il problema che io vedo nella situazione italiana è una mancanza di lungimiranza, perché dopo che il protocollo di Kyoto è stato firmato e ratificato, nessuno credeva che sarebbe poi effettivamente entrato in vigore, e quando è entrato in vigore, come dire, non c'è stata una particolare attenzione da parte dei governi che si sono succeduti in Italia a uno stringente rispetto di queste norme internazionali che sono state fissate. Per cui effettivamente un problema c'è, ma devo dire la verità, non è solo un problema italiano. Va bene, grazie, molte grazie a Marco Magrini del Sole 24 Ore, magari torneremo a sentirci quando il vertice sarà giunto a conclusione e qualche risultato sarà stato raggiunto e stabilizzato. Tra l'altro gli americani hanno mandato, come vi abbiamo detto, una rappresentanza che a tutti gli effetti è di un'amministrazione uscente, quindi sarà guidata dal sottosegretario di Stato Paola Dobrianski e si alternerà con lei Alan Watson, ambasciatore inviato speciale presso la Convenzione quadro sul clima dell'ONU. Però poi ci sarà anche un uomo che ha molto tempo da spendere in questo periodo, John Kerry, ex candidato alla Casa Bianca nel 2004, adesso nell'orbita di Barack Obama, ma senza incarichi speciali, a meno che naturalmente proprio in questa area di cui abbiamo parlato oggi in apertura si possa definire un suo incarico speciale. Non a caso John Kerry sarà a Poznan lungo praticamente tutto il corso del vertice. John Kerry è andato a Poznan perché non lo hanno evidentemente invitato alla conferenza stampa, stiamo scherzando naturalmente, di grande importanza che si terrà alle 10:40 e questi sono precisi, sgarrano di 20-25 secondi, non di più, e che quindi prevediamo di trasmettervi, perlomeno di raccontarvi almeno in piccola parte, in diretta qui più tardi, tra una ventina di minuti, allorché a Chicago, nell'ormai sede distaccata del governo americano che fa capo poi a casa Obama, ovvero alla residenza temporanea fino al 20 gennaio del presidente eletto Barack Obama, conferenza stampa nel quale il presidente 2009-2012 presenterà il team di politica estera, quello all'interno del quale naturalmente c'è anche Hillary Clinton. I nomi sono noti, c'è molta curiosità per sentire le motivazioni, anche la presentazione che Barack Obama dedicherà in quella che è stata insomma la sua acerrima, no, avversaria, la sua nemica in sede di primarie, forse anzi decisamente più difficile da battere di quanto non sia stato poi John McCain in sede di presidenziali. Tutto questo, ripeto, tra meno di tra 19 minuti. Prima pagina. Allora, apriamo la finestra cinese. Innanzitutto apro una finestra, una parentesi, su Paolo, il nostro idolo, il nostro eroe da Shanghai, perché c'è un ascoltatore che, ascoltando le sue avventure, forse ha trovato un modo per un lavoro per Paolo. Io mi sono permesso di fare da garante, da mallevadore, come si diceva una volta. Ho messo in contatto i due, Paolo mi ha risposto, insomma, ci teniamo in contatto. Se ci sono novità faremo una breaking news qui dalle sponde. Ma di che lavoro si tratta? Nell'ambito della ristorazione. Nell'ambito del... Credo, stai generico. Sono un po' vano, non ho sotto mano la mela, adesso dovrei leggerla attentamente. Comunque, insomma, volevo anche informare i tanti ascoltatori che sono in ansia, in appressione. No, non pirata sul Mekong. No, sembrano cose molto serie, quindi mi sono permesso di fare da filtro. Benissimo. A questo regalo, incontro regalo di tra Natale, Paolo e un nostro ascoltatore. Regalo di Natale per il nostro eroe in Cina, uno dei molti nostri eroi. Allora, invece, per quel che riguarda la rassegna stampa cinese, siccome tra poco parleremo di cose molto importanti, significative, soprattutto in ambito economico, per quel che riguarda la Cina e di politica estera, mi sono permesso così di fare un po' una rassegna stampa più leggera, più frivola, se vogliamo. Oggi mi sono preso molto un po' di libertà, sì. No, una cosa mi interessa molto perché sono state legalizzate, e torniamo indietro di più di 60 anni, le corse ippiche in Cina dai tempi di Mao, insomma, della salita nel 49, non erano legalizzate. C'è una prima città esperimento, ponte, si chiama Wuhan. Siamo nel centro della Cina, nell'Hebei, e hanno organizzato queste quattro gare all'ippodromo Orient Lucky City. Però per ora siamo veramente in una via ampiamente sperimentale, perché tutti gli spettatori hanno potuto scommettere gratuitamente, quindi di scommesse c'è ancora ben poco, se non il meccanismo, su due corse. Chi vinceva però ha ottenuto 20 biglietti della lotteria. Per il resto, in tutta la Cina, per ora le scommesse rimangono illegali. Vedremo se questo comunque sarà l'inizio di un nuovo corso nel continente cinese. E allora, si lamenta sempre il cinema italiano, si lamenta meno il cinema americano, reduce da un weekend del ringraziamento, il weekend lungo, no? Che va da giovedì a domenica, che è stato il secondo migliore nella storia di Hollywood, mettendo insieme la facezia di 223,7 milioni di dollari di incasso, poco meno di 200 milioni di euro di incasso in un solo weekend. Al primo posto gli incassi si è piazzato un film di Natale, non troppo diverso, forse un pochino più intelligente, ma non molto diverso da quelli che di solito fanno piazza pulita anche da parte nostra. Si chiama Quattro Natali, interpretato da Reese Witherspoon, ex attricetta così teenageriale, adesso è diventata grande, e Vince Vaughn, uno dei belli del cinema americano. Continua ad andare bene questo Twilight, che dovremmo andare a vedere. Quindi c'è crisi, ma gli americani si rifugiano al cinema. I vampiri al cinema, tutto spiano. Twilight adesso in 10 giorni ha fatto 120 milioni di dollari, sono in cassa ragguardevole, il film sui giovani vampiri. Allora, abbiamo detto la rassegna stampa oggi un po' più leggera dalla Cina. Dunque, è stato venduto all'asta in Cina per 200.000 euro, quindi un bel prezzo, il più grande tartufo bianco trovato in Italia quest'anno. Ah, sì, sì, l'ho visto. Notizia di qualche giorno fa, però insomma, sì, recuperiamo anche il ritardo del fine settimana. Si parla di un prezzo di partenza di 50.000 euro per questo tartufo dal peso record di 1 kg e 100 grammi. Arriva dai boschi del Molise, precisamente dalla località di Spinete. Ed era stato donato a Teleton dal proprietario del terreno, e alla fine poi l'asta si è svolta a Macao qualche giorno fa, sabato, nel lussuoso hotel Gran Lisboa, di proprietà del magnate appunto di Macao cinese Stanley Ho. Il ricavato peraltro andrà tutto in iniziative umanitarie, per condire bene le fettuccine a Macao, no? Si fa così. Io invece vi dico, visto che siamo, come dice Emiliano, in una rassegna stampa inspiegabilmente leggera, Entertainment Weekly, il settimanale di spettacolo, quasi la Bibbia dello spettacolo americano, da qualche anno a questa parte ha decretato chi sono le stelle nascenti le solite classifiche del 2008. Mi piacciono un sacco le solite classifiche. E ha vinto, a proposito di Twilight, ha vinto il bonazzo, il ragazzetto bonazzo di Twilight. Si chiama Robert Pattinson. Ed è il protagonista maschile, lo vedete. Ma è uscito anche qui in Italia il film? Come no? Le si vede che non sei un teenager. Non sono informato, non sono al passo coi tempi. Al secondo posto, sempre fra questi debuttanti, quindi stiamo parlando di un pubblico molto giovanile, c'è Demi Lovato, che tu non sai chi è perché non hai una ragazzina di 10 anni per casa. Demi Lovato è la protagonista di Camp Rock, ma io anche di Camp Rock non so cos'è. Vedo il tuo sguardo vitreo. Comunque Disney Channel ha una nuova religione che non è più High School Musical, bensì Camp Rock. Poi al terzo posto c'è una cantante, Estelle, quella che con Kanye West cantava American Boy. Qui c'è il nome, è più familiare. Quest'estate, sì. Qui, ma una volta forse per sbaglio la sentite. Al quarto posto c'è un cane, che è un chihuahua, un cane mostruoso, orribile, visto questo chihuahua, non i chihuahua in genere, ma questo in particolare è molto brutto, si chiama Angel ed è un chihuahua miliardario che interpreta un film vestito con una veste tutta d'oro, tempesta di diamante e quattro ripugnanti scarpettine da chihuahua, sai quanto è grosso il piede di chihuahua, anch'esse tempestate di diamante. Ha 4 anni Angel e il chihuahua in questione, c'è un film di... Non ci tenete col cane di cui anche Obama ha riso qualche giorno fa? Io forse lo regalerei Obama, ma soprattutto mi ricordo un film di Black Edwards formidabile in cui il protagonista a un certo punto si siede sul chihuahua della suocera con immaginabili risultati. A little lady of luck, be true to this feeling that I have for you. Open up your heart and I will open mine. In your finest moment I go blind, and even though I keep an open mind, every finest hour was written in your eyes. Oh, sweet California, love's a river running through you. Oh, sweet California. You and I know we've always been and always will be through thick and thin. Oh yeah, nothing's gonna come between us in our lives. Quest'estate, no, abbiamo fatto una specie di total immersion su e giù con la Cina, è stato un momento in cui ci siamo fatti anche parecchi amici, no, persone che hanno capito il progetto e hanno cominciato a usare, a farsi usare per raccontare una Cina e in genere un Oriente visto con i propri occhi, magari sulla base di una esperienza consolidata. Una di queste persone si chiama Luigi Guarda, è di Vicenza, è stato in Cina per la prima volta addirittura 30 anni fa, nel 79, tuttora va su e giù con la Cina perché fa il consulente per una serie di aziende del nord-est che lavorano sul mercato cinese. In questi giorni si trova nel nord-ovest del paese, quindi lontano da quel Guangdong, no? La zona sud afflitta da segnali di crisi, da licenziamenti di massa, ve ne abbiamo parlato più volte, abbiamo parlato anche dei disordini sociali che si stanno sviluppando in questa zona e lo abbiamo raggiunto telefonicamente per avere una serie di visioni da parte sua, una serie di informazioni ma anche una serie di segnalazioni di cose che vanno raccontate, che vanno, no, bloccate come in una istantanea per aiutarvi a capire cosa sia veramente la Cina di fine 2008. E la prima così istantanea che ci manda Luigi riguarda un tema sulle prime pagine dei giornali cinesi, del tutto ignorato dalle parti nostre: l'annullamento da parte del governo di Pechino del vertice previsto proprio oggi con l'Unione Europea, sarebbe dovuto tenere a Lione. Per la Cina la colpa è di Sarkozy, che non ha rinunciato, no? Una vecchia questione che torna, che riaffiora: non avrebbe rinunciato a incontrare in Polonia il Dalai Lama. Sentiamo Luigi Guarda. Ci sono due livelli di interpretazione. La prima è che da parte ufficiale, il portavoce del Ministero degli Esteri, ha detto chi ha creato il problema lo deve risolvere, riferendosi chiaramente a Sarkozy. La seconda cosa è che qua la stampa locale, ma anche in opinion makers locali, danno molta importanza al fatto che per la prima volta la Cina annulla un un incontro di importanza molto forte come quello tra la Cina e i leader europei, però è una questione che per i chinesi è ingerenza negli affari interni della Cina. Punto e chiuso. Qua credo che non si possa dire altro. Insomma. Quindi è un segnale molto forte comunque quello che sta lanciando la Cina ai leader europei, in particolare alla Francia. È molto più forte qua che non in Europa. Ma soprattutto c'è una molta irritazione nei confronti della Francia, anche sulle dichiarazioni di Kushner, che ha detto in fondo noi non vogliamo farci dettare l'agenda dai cinesi, ma qua non è una questione di agenda, è una questione che ogni ingerenza che viene fatta sul Tibet dai cinesi viene considerata come ingerenza sugli affari interni, quello è il problema. Guarda, lei sa benissimo, si ricorderà che nel periodo estivo e pre-estivo ci furono dei momenti di tensione piuttosto forti tra Cina e Francia, anche lì c'era il discorso del Dalai Lama, del Tibet, la fiaccola che a Parigi fu oggetto di forti contestazioni, e la Cina rispose con un boicottaggio dei prodotti francesi. A questo punto ci dobbiamo aspettare delle ritorsioni, tra virgolette, del governo cinese nei confronti della Francia? Secondo me no, ma certamente che i rapporti tra Cina e Francia in questo momento non sono dei più idilliaci. Da una parte teniamo l'occhio fisso sulla televisione perché c'è anche una certa solennità, già si sono collegate le reti All News, siamo in attesa dell'annuncio da parte di Barack Obama da Chicago, da un palcoscenico che è ancora deserto ma tra pochissimi istanti si riempirà di personalità ben note, l'annuncio del National Security Team, del team di sicurezza nazionale, con questo incontro, con la celebrazione di questa ritrovata collaborazione e armonia fra Barack Obama e Hillary Clinton. Ma continuiamo nel frattempo ad ascoltare i racconti cinesi di Luigi Guarda, che sostiene che la Cina è così grande e variegata che parlare di crisi è comunque sbagliato, tanto più che il governo avrebbe messo in campo progetti impressionanti per nuove infrastrutture attorno alle quali ora ci racconta qualcosa. In questo momento la Cina ha 79.000 chilometri di rete ferroviaria e trasporta 1,5 miliardi di persone all'anno. Io tra l'altro ieri ho fatto l'esperienza con i nuovi treni molto rapidi per arrivare a Shanghai, e le dico che sono treni comodissimi, di una estrema governabilità, tutti i posti a sedere, puntualissimi, di una pulizia estrema, cosa che da noi qualche volta lascia molto a desiderare. Comunque quello che volevo dire è che questo piano di 700 milioni di dollari per le ferrovie porterà ad avere nel 2020 120.000 chilometri di rete ferroviaria, che non è poco per un paese. Praticamente un terzo in più di oggi. Sì, l'altra infrastruttura molto importante sulla quale la stampa si è dedicata un po' è il lancio del progetto del ponte che collegherà Hong Kong con Macao via Zhuhai. È un ponte che sarà lungo 29 chilometri, costerà 6 miliardi di dollari, sarà pronto per il 2012 e sarà finanziato dal 42% dei governi delle tre entità economiche, cioè Macao, Zhuhai e Hong Kong, e il 58% da prestiti bancari. Un ponte Hong Kong-Macao è vera fantascienza, insomma mi è capitato di andare a quelle parti, a Macao ci si andava prendendo dei traghetti, facendo lunghe file, poi mettendosi lì, attraversando lo stretto, insomma era uno spostamento, come dire, sensibile, no? L'idea di un ponte che in 2-3 anni viene su, non so da quali energie, da quali forze anche produttive, è una notizia straordinaria. Tra l'altro Macao in un certo senso così, no, rovescia la sua grande possibilità di business dell'intrattenimento, la Las Vegas d'Oriente a tutti gli effetti, nei confronti della Cina diventa in questo modo ancora più accessibile. A proposito di quello che ci raccontava poco fa Emiliano sulle corse di cavalli, qui c'è un esperto che ha ascoltato con attenzione la notizia data da Emiliano e ci ha dato maggiori particolari. Ci scrive Francesco: in Cina si sta seriamente pensando di tornare a legalizzare le scommesse sui cavalli perché Hong Kong è tornata a essere cinese e le scommesse spopolano e sono un grande affare per molti, ma soprattutto un grande flusso di denaro che entra nelle casse dello Stato. Per inciso, Mirko De Muro, uno dei migliori fantini italiani, ci scrive ancora Francesco, ha appena vinto con un outsider, un cavallo che si chiama Screen Hero, la Japan Cup, una delle corse di cavalli di galoppo più importanti del Giappone, dove si corre abitualmente, e anche del mondo. E quindi fantini italiani, come dire, pionieri della globalizzazione equina, via. Vabbè. Allora, la stiamo tirando un po' in lungo perché vorremmo cogliere sia le espressioni che gli atteggiamenti, il linguaggio del corpo, come si dice, per quello riusciremo a raccontarvelo radiofonicamente, della apparizione di Barack Obama. Un minuto di ritardo, sono un po' seccato, di solito non sgarrano così tanto alla presentazione del Security National Team, in realtà di David Gates di Robert Gates, ex direttore della CIA, veterano della Guerra Fredda, che viene tenuto al Pentagono contro qualsiasi supposizione di solo qualche mese fa. Lui per primo ha detto: ma figuratevi se mi confermano. Invece Barack Obama, perseguendo la sua teoria del team of rivals, no, della squadra di rivali che però trovano la capacità al momento necessario di unire le forze e di battersi tutti insieme, ha confermato Robert Gates e ha nominato un altro veterano delle guerre americane, il consigliere per la sicurezza nazionale, sarà infatti il generale James Jones, tra l'altro ex comandante della NATO. Tra l'altro fuoriescono anticipazioni secondo le quali Obama intende, in senso di rapporti con il mondo, rafforzare innanzitutto il corpo diplomatico degli Stati Uniti d'America. Vuole ridare voce, vuole ridare forza, corpo, robustezza personale al corpo diplomatico, no? C'è quella battuta dello stesso Robert Gates, se non sbaglio, la vado a ripescare, che sostiene che in America ci sono più componenti delle bande musicali militari che operatori diplomatici. Si intende promuovere importanti progetti di sviluppo a livello globale, ma eccoli qua, sono schierati sul palco con facce estremamente solenni, Hillary Gates e Jones, ed entra Barack Obama. Good morning everybody, I hope you all had a wonderful Thanksgiving. Spero che tutti abbiano avuto un buon giorno di ringraziamento. Which is working as we speak to craft an economic recovery program to create jobs and grow our struggling economy. Abbiamo parlato di lavoro, abbiamo formato la squadra per l'occupazione con le persone più adatte a conseguire i risultati. The national security challenges we face are just as grave. Anche la sfida della sicurezza nazionale è altrettanto seria e importante come quella dell'economia. Molti conflitti sono rimasti irrisolti. La diffusione delle armi nucleari, la diffusione di tecnologie pericolose rende il mondo un posto pericoloso. America must also be strong at home to be strong abroad. L'America deve essere forte dentro per essere forte anche fuori, all'estero. Every American can compete with anyone, anywhere. And our economic power must sustain our military strength. La nostra forza economica deve essere in grado di sostenere la nostra forza militare. The common thread linking these challenges is the fundamental reality that in the 21st century our destiny is shared with the world's. Il nostro destino è diviso con il destino del mondo, e questo è il filo rosso che unisce l'economia e la sicurezza nazionale. Come abbiamo imparato dolorosamente l'11 settembre, il terrore non può essere contenuto solo attraverso delle frontiere. Who will have my complete confidence, who knows many of the world's leaders, who will command respect in every capital, Barack Obama, vi stiamo trasmettendo in diretta la conferenza stampa da Chicago, in cui introduce alla cittadinanza americana quattro altri membri del suo gabinetto, nonché due posizioni di alto profilo di politica estera, ma ora sta parlando della sua ex grande avversaria, Hillary Clinton. Iran e North Korea, to seeking a lasting peace between Israel and the Palestinians, to strengthening international institutions. Ha appena ufficializzato la nomina a segretario di Stato di Hillary Clinton, una Hillary Clinton straordinariamente commossa, mi verrebbe da dire al limite delle lacrime. At a time when we face unprecedented transition amidst two wars, I've asked Secretary Robert Gates to continue as Secretary of Defense, and I'm pleased that he's accepted. E ora è passato a presentare Robert Gates. Come fa di norma in questo tipo di cerimoniale, Barack Obama dedica a ciascun nuovo membro del suo gabinetto un minuto e mezzo di presentazioni, nel quale ne descrive con termini che non esiterei a chiamare stellari le capacità, e il ritratto che ha dedicato a Hillary Clinton è stato quanto di più onorevole, è stato il migliore omaggio che un ex avversario come lui in sede di primarie poteva dedicarle. Ora sta parlando di Gates, che viene confermato al Pentagono. Control. We will ensure that we have the strategy and resources to succeed against Al-Qaeda and the Taliban. As Bob said not too long ago, Afghanistan. Metterò a disposizione del segretario della difesa Robert Gates tutti i mezzi necessari a sconfiggere Al-Qaeda. Continue to make the investments necessary to strengthen our military and increase our ground forces to defeat. Continueremo a produrre gli investimenti necessari per rafforzare e migliorare le nostre forze militari. Has the talent and commitment to succeed as Attorney General from his first day on the job, which is even more important in a transition that demands vigilance. He has distinguished himself as a prosecutor, a judge, and a senior official, and he is deeply familiar with the law enforcement challenges we face, from terrorism to counterintelligence. È passato ora a presentare Eric Holder, l'avvocato di Washington, a suo tempo già membro del gabinetto Clinton, ministro della giustizia. I have every expectation that Eric will protect our people, uphold the public trust, and adhere to our Constitution. Vi ricordo che è il primo ministro della giustizia afroamericano della storia americana. Secretary of Homeland Security. She has spent her career protecting people. E ora ha passato Obama a introdurre, a ufficializzare una donna il cui cognome non ci può suonare familiare, nazionale, Janet Napolitano, governatrice dell'Arizona, nuovo segretario della sicurezza nazionale degli Stati Uniti d'America. Janet assumes this critical role having learned the lessons, some of them painful, of the last several years, from 9/11 to Katrina. She insists on competence and accountability. She knows firsthand the need to have a partner. Sta parlando di Janet, 50 anni, newyorkese, che dà questo tocco di italianità alla amministrazione. Janet è stata eletta governatrice nel 2002, riconfermata in Arizona nel 2006, ha trasformato un deficit statale da $1 miliardo in un surplus, in un attivo di $300 milioni, senza aumentare le tasse e migliorando il tasso di occupazione del 4%, argomenti che di questi tempi risuonano particolarmente di successo. On the National Security Council and Assistant Secretary of State will serve our nation well. E ora viene presentata Susan Rice, già consulente di Obama per la politica estera durante la campagna elettorale e nominata ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Porterà il nostro messaggio di totale dedizione alle azioni multilaterali against terror and proliferation, climate change and genocide. Dall'ambiente alla lotta al terrorismo bisogna agire in chiave collettiva. James Jones is uniquely suited to be a strong and skilled national security advisor. Generations of Joneses have served heroically on the battlefield. E ora è passato a presentare il generale in pensione dei Marines, James Logan Jones, nuovo consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca di Obama, già comandante supremo delle forze NATO. nativo di Kansas City, gode della stima del presidente eletto, ma ha goduto della stima del presidente Bush. È un classico personaggio di valore bipartisan. Nel corso della campagna, non a caso, si sono consultati con Jones non solo Barack Obama, ma anche Hillary Clinton e John McCain. Afghanistan. He will advise me and work effectively to integrate our efforts across the government so that we are effectively using all elements of American power to defeat unconventional threats and promote our values. E quindi sono state tutte confermate le nomine annunciate. Questa è la squadra di Obama che sta prendendo giorno per giorno forma e l'iniezione di nomi arrivata oggi è di quelle che conta. Naturalmente prima di tutto l'entrata a far parte del gabinetto di Hillary Clinton. Tra l'altro tra poco, quando il presidente eletto smetterà di parlare, ciascuno delle new entry dovrebbe fare una breve dichiarazione, ma il tempo in questo senso è tiranno. Va detto soltanto della estrema soddisfazione, certezza e, ripeto, solennità espressa da Barack Obama in questo momento e dalla partecipazione sinceramente emotiva dei presenti sul palco davanti alla consueta sfilata di bandiere americane. Mentre Obama continua la sua comunicazione, noi non volevamo lasciare così a metà la chiacchierata con Luigi Guarda, uno dei nostri amici dalla Cina, che ci rendono la Cina più vicina, e vogliamo dargli voce per il suo ultimo intervento, un altro passaggio che così simboleggia la crescita della Cina, il volo di prova in questi giorni del primo Airbus interamente costruito esattamente da quelle parti, proprio in Cina. Ecco i dettagli per voce di Luigi Guarda. È atterrato il primo Airbus, che è un volo di prova del primo Airbus 121-700, che sarà costruito completamente in Cina. Ne hanno già venduti, secondo la stampa economica locale, circa 200 esemplari in America e anche in Cina, ovviamente, ed anche in Europa. È un prodotto della joint venture che c'è tra l'Airbus e il governo cinese, che vede il governo cinese in partnership al 51% e l'Airbus al 49%. Quando ci sono affari di questo tipo, insomma, i problemi col Tibet, Francia, Cina non entrano in gioco, si guarda oltre naturalmente. No? Vengono bypassate di un lampo, secondo me. Quando saranno in funzione regolarmente questi Airbus, secondo lei? Ma guardi, i progetti sull'Airbus, se lo vado errato, sono stati fatti due contratti con Airbus, uno per 150 aerei e un altro per 125. Però sono tutti quanti costruiti in Cina con una grande novità. Cioè, il contratto prevede che qualsiasi materiale che sia ovviamente testato per l'Airbus e che sia reperibile sul mercato cinese deve essere comprato in Cina. In questi giorni, purtroppo, le cronache sono affollate di tutti gli episodi avvenuti in India, con la strage a Mumbai, l'attentato terroristico, e la Thailandia, dove ancora ci sono centinaia di migliaia di turisti che sono bloccati all'aeroporto internazionale di Bangkok. In Cina arrivano echi di questi fatti? Ci sono delle connessioni? Il governo di Pechino è preoccupato da queste situazioni? Lei che cosa ci può raccontare dalla Cina? Per quanto riguarda l'attacco in India, mi sembra di capire che sia una cosa che richiama l'attenzione del governo, come tutti i governi di questo mondo si sono preoccupati dell'avvenimento. A mio avviso quasi sono molto più preoccupati della questione di Bangkok, perché c'erano molti cinesi collocati in aeroporto che ieri sono cominciati a rientrare grazie alla donazione del governo, che ha messo a disposizione alcuni aerei di una compagnia privata per trasportare i primi cinesi a Shanghai. Difatti in televisione, i giornali hanno fatto vedere i primi abbracci dei turisti che rientravano. We must pursue vigorous diplomacy using all the tools. La comunicazione di Hillary Clinton dal vivo da Chicago, la conferenza stampa di presentazione di Hillary come nuovo segretario di Stato dell'amministrazione Obama. Who seek freedom, peace and prosperity. America is a place founded on the idea that everyone should have the right to live up to his or her God-given potential. L'America è un posto cresciuta sul principio che ciascuno deve, possa dar vita, dar valore fino in fondo al suo, al proprio potenziale. Beh, spirito clintoniano del repertorio migliore, ha detto: dedicherò tutto me stessa, tutta me stessa a questo incarico. Poco fa Hillary ha detto: lavorare come senatrice nello Stato di New York è stata una buona scuola. Adesso i suoi lineamenti si sono rilassati, diciamo che ha ripreso un po' di colorito, una Hillary molto emozionata. Quindi alla fine i due nemici si sono riuniti, rappacificati, il team, la squadra dei rivali è in via di allestimento. Questo è Jefferson Ming, io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Fabio Cantadori. Jefferson Ming è Radio24.it, in replica stasera alle 9, in diretta alle 4, domani qui su Radio 24. Sei